il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Il personaggio di cui raccontiamo la storia oggi mi ha tolto lui stesso dall'imbarazzo, perché in realtà non sapevo bene se riferirmi a questa persona parlando al maschile o al femminile, e poi ho letto questa sua dichiarazione. Potete chiamarmi lui, potete chiamarmi lei, non mi importa, l'importante è che mi chiamiate. Eh sì, il motivo della mia perplessità è il fatto che stiamo parlando di un uomo che è diventato famosissimo vestendo i panni di una donna, per l'esattezza i panni di una drag queen. Oggi infatti il nostro protagonista è RuPaul, la drag queen più famosa del mondo, che è un artista straordinario, un cantante, un attore, un ballerino, un conduttore di grande successo. Ha duettato con artisti come Diana Ross, Elton John, ha avuto un suo talk show personale dove sono passati tutti i personaggi più famosi del mondo, ha ideato, prodotto e presentato un reality di enorme successo negli Stati Uniti proprio dedicato alle drag queen. Insomma, un personaggio molto interessante, anche controverso ovviamente, boicottato inizialmente da una certa America conservatrice, ben pensante, dato il suo travestitismo, la sua dichiaratissima omosessualità, a cui si aggiunge il fatto di essere di colore, di essere un afroamericano. Insomma, in una recentissima intervista che gli chiedeva se fosse stato osteggiato più per il fatto di essere nero, gay o drag queen, lui risponde così. Ti spiego perché omofobia e razzismo sono la stessa cosa. È perché hanno entrambi a che fare con la malvagia necessità di opprimere qualcuno. Lo stesso vale per le persone che sono oppresse per motivi religiosi, ma che sia per il sesso o per questioni razziali, il motivo è solo la malvagia volontà di opprimere qualcuno e imporgli la propria identità. Questo è un argomento del quale mi occupo sia nella mia carriera, sia nella mia vita privata. Non è difficile da capire, non è una scienza missilistica. L'amore è la sola risposta. Love is the answer. Wow. Okay. L'amore è la risposta, dice saggiamente RuPaul, qualcosa che lui insegue per tutta la vita. Spesso analizzerà anche se stesso scrivendo un'autobiografia nella quale spiega lucidamente quelli che sono stati i fatti della sua infanzia non facilissima che lo hanno portato a determinate scelte, a ricercare quell'amore che non ha ricevuto tra le mura domestiche e che spesso canterà in molte sue canzoni. Intanto cominciamo col dire che il termine drag queen deriva dal verbo to drag, che significa proprio portare abiti del sesso opposto, abiti sopra le righe, estremamente eccentrici, abiti colorati. Quindi esistono le drag queen, che sono uomini che si vestono con abiti femminili, ma anche i drag king, che sono donne che si vestono in abiti maschili, anche se sono molto meno diffuse come fenomeno di spettacolo, perché sono obiettivamente, insomma, meno spettacolari. E non è strano che RuPaul si vesta da donna, sceglie di farlo fin da bambino perché si siete portato ovviamente, ma neanche l'occasione, perché la sua è una famiglia tutta di donne. La gente mi ha sempre preso per una bambina. La mia sorella più grande racconta che non era una cosa strana vedermi correre nel cortile di fronte a casa con il suo vestitino rosa. Io non me lo ricordo, ma non ho mai permesso a nessuno di impedirmi di fare quello che volevo. E non è che volessi per forza essere al centro dell'attenzione, era che avevo un modo di essere e di fare che metteva la gente in imbarazzo. Allora io provavo a metterli a proprio agio con un balletto, una canzone, uno scherzo. A dance, a song, a joke. RuPaul André Charles, questo è il suo vero nome. Nasce il 17 novembre 1960 a San Diego, in California. La madre è una creola molto focosa, e vedremo poi perché dico focosa. Lo chiama RuPaul, e quel Ru deriva da Ru, scritto Roux, che è un termine che conosce chi sa cucinare bene, perché il Ru è quella miscela di farina, burro o di lardo che viene usata come base per una serie di salse tipo la besciamella, le vellutate, e poi insomma in America sapete hanno anche queste belle cucine dietetiche, leggere, naturali. Bene, Tony Charles è una brava cuoca, probabilmente chiama il suo unico figlio maschio così, dicendo che un altro sulla faccia della terra con quel nome non c'era e che suo figlio sarebbe sicuramente diventato qualcuno. Forse Tony Charles non poteva immaginare che tipo di successo avrebbe raggiunto suo figlio, in quale ambito. Sicuramente ci aveva azzeccato. Lui inizia fin da piccolissimo a rifugiarsi nel dorato mondo dei suoi sogni. Molto presto, fin da bambino, mi rifugiavo nella mia immaginazione, nel mio mondo di sogno. Ideavo degli spettacolini, scrivevo canzoni, intrattenevo mia madre perché lei era piuttosto cupa, stanca del mondo, e io sapevo che potevo attirare la sua attenzione e rallegrarla un po' in quella maniera, con degli spettacoli, degli scherzi. Così potevo entrare in contatto con lei. I could get through to her that way. Il falco e il gabbiano. RuPaul, la grande drag queen, la più famosa drag queen del mondo, cresce in una famiglia molto particolare, problemi economici, genitori che litigano. Insomma, quando ha 7 anni, finalmente i suoi divorziano. Dico finalmente perché per lui è una grande liberazione, per lui e per le sue 3 sorelle, anche perché negli ultimi tempi gli scontri tra i genitori erano violentissimi, come ci racconta proprio lui. Il divorzio dei miei genitori fu veramente drammatico. L'ho capito solo molto più tardi, quando sono riuscito a guardarmi dentro, e ho capito che dovevo uscire dal mio corpo per affrontare quello che stava accadendo. L'ho già raccontato altre volte questo episodio. Una volta mia madre gettò la benzina sulla macchina di mio padre, nel garage di casa nostra, e poi se ne stava con la scatola dei fiammiferi in mano e diceva: «Non sai che c'è, Emmett? Io la incendierò». Era una piromane della Louisiana del Sud, una creola completamente pazza. E mi ricordo mio padre che le diceva: «Ti prego, Tony, non farlo, non farlo». Noi 4 bambini stavamo dall'altro lato della strada e guardavamo quella scena terribile. E io, ripensandoci, mi vedo uscire dal mio corpo e guardare me stesso e le mie sorelle, come se io fossi una telecamera. Da piccolo ho dovuto lasciare il mio corpo per affrontare quell'esperienza drammatica. Ovviamente mia madre non ha incendiato la macchina, ma questo è solo un esempio di cosa è stato il divorzio dei miei genitori. Beh, io non sono uno psicologo, però è evidente che per dei bambini, insomma, intanto assistere a una scena del genere non è sano per niente. E anche questa necessità di uscire dal proprio corpo per sfuggire alla realtà deve essere un pochino la partenza, il viatico con cui RuPaul è diventato a tutti gli effetti un travestito, una drag queen. E comunque la famiglia trova un po' di pace con il divorzio dei genitori, e a 15 anni lui segue, lui RuPaul, insomma, usate i pronomi che volete, segue la sorella maggiore Renetta, che si è sposata, va a vivere a Atlanta in Georgia, e lui frequenta una scuola d'arte e di spettacolo. I was a sweet, sweet little boy. Ero un ragazzo molto dolce e bravo, di buone maniere e soprattutto incompreso, perché ho sempre visto molti colori nell'arcobaleno e un sacco di persone hanno paura di questo. Le persone non vogliono vedere i colori, non vogliono ricordarsi chi sono veramente. È troppo per loro. Io cercavo persone che parlassero la mia lingua, e per fortuna mia sorella Renetta, che ha 7 anni più di me, lei la parlava e la parla la mia lingua. Si avvicina molto al tipo di persona che volevo si prendesse cura di me. ma San Diego è una città in quegli anni molto conservatrice, e allora si trasferiscono a Atlanta, dove sua sorella vive con passione il fermento degli anni 70, la rivoluzione sessuale, le rivendicazioni femministe. In salotto Renetta ha appeso il poster di Sylvester, drag queen, membro del gruppo The Croquettes, che è un gruppo comunque di uomini che si travestono da donna, che mantengono però le caratteristiche maschili, che hanno la barba, la adornano di brillantini, insomma, diciamo gli antesignani della odierna cantante barbuta Conchita Wurst. E lui se ne innamora perdutamente di Sylvester, ma non sono le uniche star che lo influenzano. Sentite a chi lui dice di dovere molta gratitudine. Early on, I connected with Diana Ross. Vidi Diana Ross al Led Sullivan Show in televisione. Aveva quel qualcosa. Mi ricordo che ero in garage di casa e la copiavo. Copiavo il movimento delle spalle e i suoi occhioni e il sorriso. Poi a metà degli anni 70 arrivò David Bowie. Pensai, questa creatura così bella. Tutto quello che io sento dentro di me, lui lo fa all'esterno. He was doing on the outside. Beh, insomma, ci sono 10-15 album capolavori di differenza. Comunque, torniamo al suo mito per eccellenza, Diana Ross. Molti anni dopo lui duetterà con lei in un remix del grandissimo successo di Gloria Gaynor, I Will Survive. Insomma, RuPaul ha deciso, canta, balla, recita, gli piace travestirsi da donna, ama gli eccessi, e fare la drag queen diventa il suo sogno. È più facile a dirsi che a farsi, perché la concorrenza è spietata. Siamo negli anni in cui, sulla scia dei movimenti della liberazione sessuale, i locali delle città americane si riempiono di molti personaggi stravaganti, non solo delle città americane, arrivano anche a Milano. Ma ricordiamoci che RuPaul, lui non si traveste perché è di moda, lui ha una sua storia che lo porta lì, ha un passato molto presente che non lo ha abbandonato e che gli fa vivere una realtà sdoppiata nella quale lui chiama il se stesso travestito da drag addirittura con un altro nome, The Monster, il mostro. Well, you know, when I'm talking about myself... Beh, quando parlo di me stesso con un manager o in una riunione o al ristorante in un pranzo di lavoro, piuttosto che dire il mio nome dico il mostro. Il mio nome è Ru, mi chiamo RuPaul, ma quando sono nei panni della drag, mi chiamo il mostro, perché è l'altro mio lato. Lo chiamo così perché è senza controllo, mi porta via tantissima energia, perché il pubblico mi dà tanta energia e io devo restituirne altrettante. Serve molta forza. E così inizia quella che sarà una lunga gavetta, durata oltre 10 anni. E lui partecipa a diversi film del cinema underground, scrive canzoni, balla, si esibisce nei club di Atlanta, collabora con altre drag queen come la famosa Vaginal Davis, un nome che è già, diciamo, tutto un programma. Nei primi anni 90 va a New York, dove inizia a farsi conoscere nell'ambiente drag della Grande Mela, partecipa a festival, a documentari. Le sue doti cominciano a fare parlare di sé e le sue caratteristiche inconfondibili sono una certa avvenenza e una grande altezza, 1,93 m, ma soprattutto una personalità travolgente. Il suo look è sempre più sofisticato, glamour e fa centro con Supermodel of the World, album di Dance House Music. Lui conquista finalmente il successo che sta aspettando da tanto tempo. È il 1993, RuPaul diventa una star internazionale. Il Falco e il Gabbiano. La storia che raccontiamo oggi non è solo una storia effimera di paillette, di lustrini, di unghie, di tacchi, scollature, eccetera. E oggi stiamo raccontando soprattutto una storia fatta di sentimenti, di rivincite, di rinascite, di rivendicazioni sociali, perché il protagonista oggi è RuPaul, la drag queen più famosa del mondo, il cui successo internazionale rappresenta una grande vittoria di un genere di spettacolo decisamente particolare, uno spettacolo che è stato proprio lui a portare al grande pubblico per la prima volta. Abbiamo raccontato l'infanzia del nostro protagonista, un'infanzia difficile che lo segnerà per tutta la vita, che diventa il motore del suo mondo eccessivo, del suo travestitismo, che lo porta comunque a diventare una star internazionale, perché le doti artistiche ci sono, non ci sono solo gli eccessi. Così, dopo una grande gavetta, una lunga gavetta durata oltre 10 anni, lui diventa famosissimo con un album di dance house che si chiama Supermodel of the World nel 93. Ascoltate cosa racconta al talk show di Annie Manaus nel 2008. Were you ready? Eri pronto al successo quando lo hai raggiunto? Quando Supermodel è diventata una hit? Assolutamente sì, pensavo che sarebbe successo molto prima. Ero nello spettacolo da quasi 11 anni e non erano stati anni facili, dormendo dove capitava, cercando di racimolare i soldi per mangiare, tutte quelle cose lì, per 11 lunghi anni. E poi, dopo aver ottenuto il successo nei locali di New York, ho pensato che era ora di venire fuori. E allora ho lavorato per quasi un anno al progetto Supermodel, mangiando popcorn nei locali dei miei amici perché non avevo soldi. Ero pronto al successo. La cosa forte è che io forse non ero il bambino più popolare della scuola, ma emergevo. La gente sapeva il mio nome. Ero già alto 1,90 m a 14 anni e, sì, emergevo. Ero già una specie di star. So it was always a standout. So it was always a star, so to speak. Sicuramente una personalità forte, determinata, unita a questo fisico straordinario, 1,93 m, un viso che probabilmente nella versione maschile assomiglia un po' a Yul Brynner, nella versione maschile, ma nella versione femminile, insomma, diventa un'altra cosa, non volgare, glamour, porta parrucche, inventa un trucco che ormai è quasi una maschera teatrale. Insomma, un grande professionista dell'estremo e dello spettacolo. È anche una persona molto intelligente. In un'intervista del 2008 fa una interessantissima analisi del suo successo, facendo un excursus storico che è molto azzeccato. It's interesting. I've observed pop culture all my life. È interessante. Ho studiato la cultura pop per tutta la mia vita, guardandola dall'esterno. E c'è stata una finestra di opportunità che si è aperta in un certo momento, è stato molto chiaro. Sapevamo tutti che era il momento giusto. Oggi questo non potrebbe più accadere. Oggi il fenomeno delle drag non è accettato come lo era allora. È così anche per i gay. Io sono nato nel 60 e quindi gli anni della mia formazione sono stati gli anni 70, durante i quali c'è stato un grande fermento. Il movimento di liberazione della donna, i diritti civili, i diritti dei gay, la rivoluzione sessuale. Poi nell'era Reagan c'è stata una chiusura con le varie crisi che ci sono state. Si è tutto riaperto con Clinton ed è stato quando sono arrivato io. Poi con Bush la nostra cultura basata sulla paura è riaffiorata e con essa la voglia della gente di interagire solo con cose sicure. Insomma, un successo che non è capitato per caso, non è solo un travestito che gioca a scandalizzare. Dietro c'è professionalità, carisma e anche una, come dire, abile e proficua amministrazione di se stessi e del proprio personaggio. Tutto questo attira per esempio l'attenzione di una casa cosmetica canadese che si chiama la MAC Cosmetics, che realizza prodotti di make up per le sfilate, quindi prodotti professionali. Bene, RuPaul firma con la MAC un contratto, diventa testimonial, cioè la prima drag queen al mondo a essere testimonial di un'azienda cosmetica, e la sua notorietà è tale che i prodotti diventano richiestissimi anche dal pubblico, passano dal settore dei professionisti a quello della gente comune. Insomma, è un salto di popolarità, un successo economico, lui fa centro in tutto. A questo punto la sua carriera di cantante raggiunge veramente punte molto alte, perché a chiamarlo per un duetto è niente meno che Sir Elton John. Lui sta facendo un disco, Duets, dove canta con Chris Rea, Paul Young, Little Richard, George Michael, e canta un suo vecchio successo del 76 con RuPaul, la canzone Don't Go Breaking My Heart, che aveva già cantato con Kiki Dee negli anni 70. Bene, diventa una hit immediatamente grazie alla presenza di questa stravagante drag queen che fa parlare parecchio, anche perché Elton John ha molta ironia, quindi vive in questa cosa, anche il fatto che RuPaul fosse alto un metro più di lui, la vive con simpatia e con autoironia. Nel 94 sono ospiti a Sanremo, ascoltate come li presenta Pippo Baudo e poi ascoltate anche la canzone. Elton John, benvenuto a Sanremo, welcome to Sanremo Festival. This is the first time for you in Sanremo. Second time. Ah, la seconda volta che Elton John viene in quel di Sanremo. Come vi ho detto, lui ha fatto un disco bellissimo, duets, c'è Chris Ria, c'è Paul Young e c'è un personaggio inquietante, una special guest star, ma very special. State attenti perché ad accompagnarsi Elton John è un personaggio, RuPaul, particolare. Don't go breaking my heart, cioè non andare a spezzare il mio cuore. State attenti che prodigi si possono fare. Elton John! Io vi consiglio di andarlo a vedere questo spezzone di Sanremo, dovrebbe esserci su YouTube. Allora, RuPaul arriva sul palco con 20 centimetri di tacco, quindi sovrasta tutti, e ha una parrucca bionda stile Luigi XIV, un abito verde smeraldo. Poi c'è il suo trucco molto carico, scolpito da maschera teatrale. Insomma, un look di grande effetto. Quello sobrio è Elton John, non so se mi spiego. RuPaul canta, balla senza essere da meno del suo illustre partner. E Baudo scherza sull'altezza impressionante di RuPaul. Elton John, RuPaul. La vita è veramente strana. Life is strange. Lui è un ex giocatore di pallacanestro, veramente. Basket player, are you a basket player? Vero? It's true. I love everybody! Ecco, vi ama tutti quanti. RuPaul, grazie ad Elton John per questo omaggio di questa sua creazione di duets. Elton John, RuPaul, ciao! Ciao! RuPaul ormai è una star internazionale e piace anche perché non è un personaggio aggressivo, è una persona dolce, trasmette amore verso il prossimo, tutela e speranza verso i più deboli. Insomma, questo lo fa apprezzare anche dai media, malgrado insomma fosse una persona come minimo criticabile, gay dichiarato, è travestito, è nero, però ha questo talento assolutamente inconfutabile. Così nel 95 scrive anche una autobiografia, Let It All Hang Out. L'anno successivo conduce un suo talk, The RuPaul Show, che è uno dei primi programmi televisivi nazionali americani condotti da un presentatore apertamente gay. RuPaul ha sempre ospiti di un certo tipo, tra cui ovviamente la sua musa di sempre, la mitica Diana Ross. Welcome back. Welcome back from the break. Bentornati. Vi sono mancato? Bene. Ora voglio rendere omaggio a una signora che è molto vicina al mio cuore. Lei è stata un'ispirazione e una guida per tutta la mia vita. Questa è la presentazione che ho atteso di fare da sempre, davvero. Accogliamo la sola, l'unica, Diana Ross. Com'è sexy questo posto? Vero? Sembra Las Vegas. Come stai? Benissimo. Sai, tu hai un'energia pazzesca. L'ho sentito fin dalla prima volta che ti ho incontrata. Tu sei credente? Sì. Non so se è da questo che deriva tutta la mia energia. Probabilmente sì. Ma è anche che mi piace il mio lavoro. Sono felice di essere qui. È una bella vita. It's a good life, it's good. E contemporaneamente alle conduzioni televisive, alle partecipazioni cinematografiche, RuPaul continua la sua attività di cantante. Esce il suo album Foxy Lady, a cui segue un altro disco natalizio, e poi nel 97 un altro duetto di enorme successo con Martha Walsh, un remake del famosissimo brano disco It's Raining Men. It's Raining Men, che vuol dire piovono uomini, non so se mi spiego. Dopo un periodo abbastanza lungo di attività in cui si dedica alla musica, alla televisione, produce diversi album di buon successo, torna più splendente che mai nel 2008 con un nuovo progetto interamente ideato, prodotto e condotto da lui, RuPaul's Drag Race, un reality televisivo in forma di talent show che vede la partecipazione di molti aspiranti drag queen giudicati da un gruppo di esperti che assegnano al vincitore il titolo di America's Drag Superstar. Drag Race ha un successo stellare, pensate che quest'anno è partita l'ottava stagione, il reality è stato esportato anche in Gran Bretagna, Canada, in Australia, ha vinto premi prestigiosi a Città del Vale, no scherzo, in Italia non è ancora arrivato, regalando a RuPaul una vita di un successo incredibile che l'ha portato anche a realizzare nuovi album che lui promuove durante il reality, tra i quali il grandissimo successo Born Naked, Nati Nudi, uscito l'anno scorso, nel quale RuPaul spiega il titolo proprio durante un'intervista che gli fa Whoopi Goldberg. Tutti sappiamo che esiste un personaggio che recitiamo quando siamo sul palcoscenico della vita e uno che è quello che siamo fuori dal palcoscenico. Questo è quello che sono le drag queen. Ma questo vale anche nella vita di chiunque. Qualunque persona vive questa condizione. Per questo io dico che siamo tutti nati nudi e il resto è drag. Born naked and the rest is drag. Siamo tutti nati nudi e il resto è drag. È una bella sintesi della filosofia, del messaggio profondo che RuPaul porta avanti nella sua carriera, soprattutto nella sua intera esistenza, dove di colpi d'ala ne ha dati veramente moltissimi. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare colpi d'ala, volare in alto e riscattarsi e in qualche modo anche reagire a vicissitudini complesse della vita, perché la vita non è mai tutta rose e fiori. RuPaul, per esempio, dopo un inizio di vita difficile, è riuscito veramente a vincere tutte le sue battaglie attraverso strade anche poco battute. Se volete mandarci commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito radio24.it oppure venite a cercarmi sui miei social. Ciao, a domani.